Il punto di Stefano Folli. Resta davvero difficile da capire come sia possibile che in Italia diventi irrisolvibile e ingestibile anche il funerale, se il funerale doveva essere, di un nazista morto centenario. Difficile capire come non esistesse un abbozzo di piano preordinato, visto che la morte di questa sgradevole persona era un evento tutt'altro che imprevedibile, data l'età. Difficile capire come si è finiti abbastanza casualmente nella cittadina laziale di Albano per trovarsi sopraffatti dalla guerriglia urbana, neanche fossimo a Genova ai tempi del G8. Prima che era il personaggio che era, ma viveva a Roma da anni, gironzolava per la città, controllato da un paio di poliziotti, faceva la spesa, andava al bar. La condanna della storia pesava su di lui come un macigno, ma nessuno giustamente gli aveva mai torto un capello. C'erano tutte le premesse perché anche l'ultimo atto si svolgesse nel disprezzo, certo, ma nell'ordine e nella civiltà. Invece, chissà perché, da noi tutto si complica fino all'assurdo.